Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. 4, 6, 10, 14, 21. Queste sono le età dei nostri 5 figli. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico. Prima puntata di Padri Eterni, un nuovo programma, un viaggio dove parleremo di padri e ai padri. Tu hai 3 figlie piccole, io 2 maschi grandi. Io sono molto assente, tu sei molto presente. Insomma, siamo una coppia abbastanza complementare per fare questo percorso. Il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Però, come dice il promo, non ci sono padri perfetti, non ci sono padri imperfetti. Parleremo di padri di tutti i tipi. È settembre, è la prima puntata, riaprono le scuole, si torna dalle vacanze, ricomincia quella che è la routine, che insomma è una strana bestia la routine, no? Perché è veramente la quotidianità con cui ti trovi ad avere a che fare. Poche ore di tempo, anche tanto lavoro, spesso ci riduciamo il sabato o la domenica a stare con i figli, quindi c'è una parola che alleggia, che è programmazione. È una parola che ti spaventa in quanto padre molto presente? Ma è una parola che non conosco, come credo la maggior parte dei padri, nel senso che per me un buon padre è colui che è in grado di lavorare con quel che c'è. Dunque, che mantiene aperta questa capacità, mi verrebbe da dire, di improvvisazione. Ma attenzione, l'improvvisazione non è il contrario della programmazione. Andiamo a capire, la programmazione se ha un qualche senso educativo, se può aiutarci a dare qualità, a dare intensità al tempo passato insieme ai figli. E lo facciamo con il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Luigi Ballerini. Luigi è scrittore per ragazzi, ma è psicoanalista, è stato manager e ha lavorato tantissimo e lavora tantissimo con i manager. Ciao Luigi, buona domenica e benvenuto a Padri Eterni. Oh, ciao a tutti, grazie. Tra l'altro Luigi è padre di 4 figli, quindi andiamo a sommare. Luigi, fermati. Ormai sì. Luigi, il rapporto con i propri figli in quanto padre è un qualcosa da mettere in agenda? L'agenda può diventare un aiuto, un supporto, un soccorso? Ma guarda, quando ti sento parlare di mettere in agenda, resto proprio perplesso, sai, perché così mi viene da dire che un figlio mi aspetto che sia primo nel pensiero del padre che nella sua agenda, vuol dire che ce l'ha in testa, che se lo ricorda. Noi in agenda mettiamo le cose di cui abbiamo paura di dimenticarci, no? Le annotiamo perché sennò, santo cielo, quell'appuntamento salta, per cui è in testa, nel pensiero che abbiamo il figlio, perché poi annotarlo in agenda forse fa coppia con un'espressione che ogni tanto sento anche dei genitori che mi vengono a trovare in studio: non riesco a gestire mio figlio, che è un altro termine ambiguo e sospetto, perché le parole hanno un valore, guarda, le parole sono tutto, e io penso sempre: non si gestiscono i figli, no? Si gestisce un'azienda, si gestisce un'attività, i figli si incontrano, si vive insieme, si conoscono, si aiutano a crescere, ma non si gestiscono, per cui diciamo che insomma non vedo mio e non è nel mio lessico l'idea di organizzare la propria attività di padre. Mi sembra davvero troppo manageriale, ma nel senso deteriore del termine, non in quello buono. Il mio compagno di viaggio Matteo Bussola, che abbiamo conosciuto con il suo bel libro Notte in bianco, baci a colazione, dove narra la quotidianità, no? Quella presenza costante che insomma è stata la tua meraviglia lì, no? Quel giorno per giorno insieme alle tue figlie, che ti ha dato spunti per leggere l'attualità. Per te questa parola gestione è una parola orripilante, immagino. È una parola orripilante perché, come diceva Luigi, i figli non si gestiscono, al limite sono loro a gestire te. E lasciarsi gestire dai figli, secondo me, è una delle più grandi opportunità che ci sono per un padre, cioè rimanere aperti a quello che c'è, rimanere aperti alle possibilità che si manifestano davanti a te nel momento in cui si manifestano. E quindi sono pienamente d'accordo con quello che dice il nostro ospite. Tra l'altro, tu facevi questa contrapposizione fra noi in apertura, dicendo che tu sei un padre che per questioni lavorative sei un po' più assente, io sono più presente. Ma in quest'ultimo anno, in cui mi è capitato di girare molto di più rispetto a quelle che sono le mie abitudini, ho scoperto che c'è una presenza che si può manifestare anche attraverso un'assenza. la telefonata, il momento giusto, la parola, cioè si può essere partecipi della vita dei propri figli anche senza essere necessariamente lì. Luigi, però io sono a casa solo la domenica, so che sarò a casa solo le domeniche perché il resto della settimana lavoro. Ecco, programmare delle attività e mettermi d'accordo con i miei figli, sapere che ogni domenica faremo quella cosa, non può essere un aiuto, non può essere una sicurezza anche nei loro confronti. Ma sembra più una sicurezza mia di adulto che così so cosa fare, perché sai che a volte può essere imbarazzante trovarsi anche con un figlio e non saper cosa fare, dover solo inventare al momento, ma è anche una bella esperienza, sai, perché è l'occasione del lo vediamo insieme. Perché un rischio che vedo nell'ipotesi che fai tu è quello del programmare magari a distanza di tempo, ma va bene, ma nei termini di dai, faremo quella cosa lì, ma c'è un caveat, un'attenzione che dobbiamo avere, ed è quella di non entrare nell'errore che, visto che ci sto poco come padre, faremo sempre qualcosa di straordinario, come è stato detto prima da Matteo, in fin dei conti il quotidiano e l'ordinario è estremamente interessante, al di là del fatto che poi abbiamo la tentazione di farlo scadere in routine, in realtà la nostra vita scorre nell'ordinario, e allora io padre che magari ci sto poco con mio figlio, mia figlia, i miei figli quando sono più di uno, io che ci sto poco, magari proprio passando quella domenica, anche adesso ci avviamo verso l'inverno, magari sì, questa domenica in casa dove possiamo stare piacevolmente insieme, inventandoci qualche cosa, ma dentro la nostra quotidianità, a volte anche dentro il nostro luogo di vita o il loro luogo di vita, ha un valore tanto grande quanto quella volta che faremo quella cosa eccezionale. Ecco, io credo che valga la pena di dare questo invito, di non pensare che dobbiamo compensare, fare chissà cosa, in fin dei conti la nostra presenza c'è anche facendo le cose che interessano a noi, perché poi il rischio è del padre che si sacrifica e faccio qualche cosa per far piacere al figlio, per stare con lui. In realtà quello che è importante è che quello che facciamo insieme piaccia anche a me, che sia una cosa bella insieme, perché l'altro inevitabilmente si accorge di uno scarto, cioè se l'altro non c'è lo sta facendo solo per me, che un pochino mi gratifica, ma a me piacerebbe se mio papà si divertisse quando è con me. Per cui l'invito è, possiamo programmare nel senso di dai, faremo quella cosa lì, e certe cose andranno programmate anche a distanza di tempo, ma non aver paura anche della quotidianità e della banalità bella del quotidiano, dell'ordinario, abbiamo 3 ore insieme e troviamo insieme qualche cosa da fare, anche questa, vincere la tentazione di dover essere io che programmo, che organizzo io, ma anche lasciare uno spazio all'ascolto e vedere che idee hai, cosa ti piacerebbe. Fantastico, questo è un bellissimo elogio della banalità. Ringraziamo Luigi Ballerini, ricordiamo che è scrittore per ragazzi, tra i tanti libri vi consiglio Imperfetti, edito da Castoro, dove insomma una bellissima trama, un bellissimo romanzo e c'è un bel rapporto anche, no? Uno di quei rapporti stimolanti tra padre e figlio. È bello leggere dai libri, no? Le storie di altri padri, perché possono dare spunti interessanti. Grazie Luigi, buona domenica. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Noi adesso ci fermiamo, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando e poi ancora qua con i Padri Eterni. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Padri Eterni. Ancora Padri Eterni, Federico Taddia, Matteo Bussola, per parlare ai padri, per parlare con i padri. La parola programmazione, la parola con cui abbiamo iniziato oggi in questa prima puntata. Ci spostiamo un po', passiamo da programmazione a organizzazione. Tu Matteo sei un padre ordinato? C'è una domanda di riserva. No, io sono un padre contrario a tutte le parole che finiscono con zione. Ah sì, è proprio... Ma come? Insomma, hai messo anche colazione. Colazione è l'unico. È il titolo del tuo libro. Allora, andiamo a capire se l'organizzazione ci può essere d'aiuto per dare qualità al tempo passato con i nostri figli. E tutto ciò lo facciamo con Sabrina Toscani. Sabrina è la fondatrice di Organizzare Italia, che è un'impresa che ha come missione proprio la promozione dell'organizzazione per migliorare la qualità del vivere, ed è autrice anche del libro Facciamo Ordine in Casa, nel Lavoro e nella Vita, pubblicato con Mondadori. Benvenuta Sabrina, buona domenica. Buona domenica, ciao. Allora Sabrina, siamo padri con poco tempo, siamo padri distratti, siamo padri che sappiamo che magari i nostri figli riusciamo a sentirli al telefono, a vederli alla sera, magari a cena ogni tanto, forse la domenica, ecco, è il momento in cui riusciamo a stare con più relax insieme a loro. L'organizzazione ci può venire in aiuto? In che modo? Sì, per me sì, anche se è una terribile parola che suona male, è vero. Però diciamo che dal mio punto di vista si può vedere come uno strumento, quindi insegnata soprattutto ai bambini e ai ragazzi, dico sempre che è un po' come una lingua, cioè la lingua inglese se viene insegnata da piccoli viene così metabolizzata in maniera naturale e poi si può usare o meno, non è obbligatorio usarla, però se uno vuole usarla può usarla. Allo stesso modo l'organizzazione è un talento che uno può avere innato, ma è raro che sia innato, eppure serve sempre, e quindi passarlo dai padri ai figli sarebbe abbastanza importante, quindi anche organizzare insieme, sapendo che la finalità non è organizzare tutto o mettere in ordine tutto, ancor peggio, è di avere uno strumento che se vuoi utilizzare puoi utilizzare, quindi puoi cercare di programmare appunto qualcosa, non tutto. Ma questo significa nella pratica, che ne so, mettersi a tavolino con i propri figli e decidere cosa fare insieme, quando farlo insieme, quale tempo dedicare ad attività comuni? Io penso che questo possa avere un valore, perché è molto bello sognare insieme e pensare che cosa poter, come poter passare del tempo insieme, a prescindere poi che siano anche cose piccole, non devono essere lunghi viaggi o cose complicate, ma magari un piccolo progetto da fare insieme, e la parte bella è anche organizzarlo insieme e quindi avere un contributo anche da parte dei figli, delle diverse età, che daranno un loro contributo e si sentiranno ancora più partecipi del tempo passato insieme, quindi non necessariamente tutta la domenica o tutte le domeniche. Ma dal mio punto di vista è consigliabile mettersi magari una volta a settimana, una volta al mese, spendere del tempo con i figli per organizzarsi, organizzare qualche attività insieme che possa essere gradevole per tutti, sapendo che poi gli imprevisti possono succedere, solo che se non si organizza il rischio che vada tutto a monte ancora prima di pensarlo a volte può essere maggiore forse. Io sono un perfetto disorganizzatore, non so tu Matteo, con tre figlie hai cartelloni in casa con scritto a che ora ci si alza, cioè tipo sì. Ah, sì, ce li hanno tutti, ho molti più scarabocchi sui muri, ho una palla di robe da stirare che vive da tre anni spiaggiata sul nostro divano, che abbiamo soprannominato amorevolmente Umberto. Questo per dire quanto l'organizzazione, no, in generale comunque volevo dire, io prima naturalmente ho fatto una battuta, diciamo che in generale sono abbastanza sospettoso nei confronti delle parole programmazione, organizzazione, quando vengono usate in maniera eccessiva, cioè ho l'impressione a volte che alcuni genitori siano mossi in queste forme di organizzazione ossessiva perché si sentono in colpa, perché non riescono a passare sufficiente tempo con i loro figli, eccetera. Ma la programmazione è come la progettazione, no? È un gettare in avanti il problema, cioè cercare di programmare quello che ancora non c'è. Io invece sarei per un maggiore investimento sulla presenza, semplicemente questo volevo dire. Che, come dicevi prima, comunque può essere una presenza anche breve, ma comunque assolutamente di qualità. Diciamo che io sarei per sostituire il senso di colpa col senso di polpa. non è male. Sabrina, ma quando è che diventa rischioso mettere troppo ordine nei rapporti personali, per esempio? Beh, quello questo fa venire i brividi anche a me, nel senso che a me appassiona l'organizzazione appunto come strumento, però pensare di organizzare nei rapporti personali, così come viene detta la frase, fa un po' paura. Io penso invece che ciascuno di noi possa usare lo strumento dell'organizzazione per riuscire a ritagliarsi quei tempi che ritiene prioritari, per esempio passare del tempo coi figli, e attraverso l'organizzazione riesce probabilmente a farlo meglio, certo. a ritagliarsi più tempo e a rimpolparlo meglio. Quindi è una questione di priorità, di obiettivi. Credo quindi che la programmazione non sia la stessa per tutti come l'organizzazione, ognuno ci abbia la propria. Però non è neanche da... ho l'impressione che in Italia ci sia la tendenza a a vedere l'organizzazione come una cosa molto negativa che deve per forza tarpare le ali. Certo. Credo che se ben dosata invece è proprio quella che ti permette di acquisire più libertà, proprio perché puoi sceglierti, hai più energie libere, più spazi liberi e più tempo libero, e quindi con quel tempo lì puoi farci effettivamente quello che ti sta a cuore. Butti via meno tempo, sprechi meno tempo. Su questo sono pienamente d'accordo, soprattutto su scegliere le tue libertà. Uh-huh. No, poi in realtà va detta una cosa che appartiene all'evidenza e alla vita di ogni genitore. La prima cosa che ti insegna il diventare genitore è proprio questa nuova forma di organizzazione endogena che si attiva quasi da sola, no? Ogni genitore sa che all'improvviso mezz'ora rispetto a quando sei celibe o single o non hai figli, d'un tratto non è più mezz'ora ma diventa mezz'ora. Cioè diventa una cosa nella quale riesci a mettere molte più cose di prima, impari a far fruttare il tempo in maniera migliore. Ecco, questa forma di organizzazione qui mi piace molto. Organizzaritalia.com è il sito dell'impresa fondata da Sabrina Toscani. Sabrina, hai un consiglio per la pila di indumenti da stirare di Matteo? Ma di lasciare Umberto ancora lì ancora qualche giorno, poi cominciare a guardarlo brutto e affrontare il problemino. Sì, quella è una sfida, una sfida tra uomini. Grazie davvero Sabrina, buona domenica. Grazie. Grazie a voi, grazie, ciao. Questo è Padri Eterni, cerchiamo di raccontare la contemporaneità anche con gli occhi dei padri, offrendo strumenti utili per questa parola, che è la parola magica, la parola che ci avvolge, che è la parola tempo, che alla fine diventa la parola chiave nel rapporto con i propri figli. Tempo non tanto come quantità, ma soprattutto come qualità. Lo faremo anche ascoltando le vostre storie. Potete scriverci, potete farlo via email. padreeterni@radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se volete raccontarci le vostre storie di padri, ma tutto ciò lo potete fare anche attraverso i social, quindi Facebook, con la nostra pagina I Padri Eterni, che è la pagina ufficiale, oppure attraverso Twitter, @PadriEterni. E a proposito di poste, ascoltiamo un po' quello che pochi giorni fa Pieraccioni, l'attore, ha scritto su Facebook. Signori, siamo passati da mio padre mi fulminava con uno sguardo a mio padre se dice di no lo fulmino. I nostri amatissimi pargoli, sin dalla tenera età, stanno prendendo dito, mano, braccio e cosce. Sono i cosiddetti scatenatissimi nativi digitali, ma mi sa che sono pure nativi più stronzi di un tempo. Imparano velocissimi il nostro limite di sopportazione e sanno che alla quinta volta di fila che glielo chiedo piagnucolando, noi cediamo, maleducati per la nostra mancanza di fiato. Babbo, mi ha chiesto seria la mia, ma se io da oggi faccio tutto quello che mi dici, tu mi potresti pagare? La risposta doveva essere un tenero calcio nel culo, alla chinaglia, e invece mi è pure scappato da ridere. Due giorni dopo si è lamentata perché reo di averla portata nel solito ristorante, due volte nella stessa settimana. Altra pedata nel culo mancata. Il risultato potrebbe essere che il passaggio da simpatica bambina birichina a impertinente ragazzetta stronzetta sia già scritto. Colleghi genitori, uniamoci. Se le nostre amorose e moderne spiegazioni sul vivere corretto sono accolte da pernacchi e risatine, risdoganiamo il vecchio e caro calcio nel culo dei nostri nonni. Non ha mai fatto del male a nessuno, anzi. Questo è Leonardo Pieraccioni, il suo appello. Colleghi genitori, uniamoci, torniamo al vecchio e caro calcio nel culo. Un post che ha fatto molto discutere, aspettiamo anche i vostri commenti. Matteo, genitori, uniamoci, il calcio nel culo ha valenza educativa? Allora, il calcio nel culo, inteso in senso letterale, no. Suppongo che fosse un'iperbole, insomma, io la definirei l'annosa, antica, eterna questione delle regole. Mm-hmm. Ecco, e in questo senso sì, certamente i figli, i bambini hanno bisogno di regole, hanno bisogno di regole chiare e condivise, soprattutto da entrambi i genitori. La cosa peggiore che di solito accade nelle famiglie è che il papà e la mamma si contraddicono, per esempio. Uno dice una cosa e uno lo smentisce, magari in presenza del bambino. Questa è la prima cosa da evitare, secondo me. Ma in generale le regole servono proprio perché i bambini strutturano la loro libertà attraverso i paletti che gli mettiamo, proprio come fa uno slalomista quando scende dal suo percorso. In questo senso sono pienamente d'accordo. Mm-hmm. Anche se appunto le regole imposte col calcio nel culo forse non sono... Cioè, sì, sono regole che nell'immediato si fanno rispettare, ma non sono regole che vengono poi introiettate. Non vengono introiettate perché col calcio nel culo i bambini imparano a temerti, invece devono imparare a rispettarti. È la famosa vecchia differenza tra autorevolezza e autorità. L'autorità la imponi, l'autorevolezza la guadagni, ed è questo che bisognerebbe fare. Questo è quello che si dovrebbe fare. Aspettiamo i vostri commenti via Facebook, via Twitter o alla nostra mail. Adesso ci fermiamo, è il momento della pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Padri Eterni. Eccoci qua ancora con i Padri Eterni, Federico Taddia, Matteo Bussola. Vi ricordo che tutto ciò di cui parliamo potete ritrovarlo sul nostro sito radio24.it e da lì riascoltare, scaricare il podcast, lì trovare tutti i contributi extra e poi frequentare i nostri social, Facebook e Twitter, nelle nostre pagine ufficiali. E, beh, un programma che va di domenica, lo abbiamo detto più volte, la domenica è anche un momento privilegiato per stare insieme, per fare attività, per organizzare anche, no? Delle piccole gite, quindi faremo anche un po' di attività di calendario, lo faremo sul nostro sito, ma lo faremo anche durante le puntate per raccontare quegli spazi e quegli eventi che si possono andare a vedere, vivere e visitare insieme. A te per esempio, Matteo, piace andare per mostre con le tue figlie? Forse sono piccoline. Le mie figlie sono ancora piccoline, mi è capitato con la maggiore di portarla a vedere mostre d'arte, sì, mm-hmm. Mostre di pittura, siamo stati al Museo di Scienze Naturali, però insomma è chiaro che entro un certo range d'età preferiscono fare altro. Sì, anche ormai sono grandicelli, però con il ragazzino col 14enne ancora si vanno a vedere un po' di mostre. Poi c'è sempre la diatriba, no? Che non è facile da papà accompagnare i figli, non si è mai contenti. Dai, leggi meglio, dai, stai attento, ma hai preso nota? Non ci si accontenta che possano rimanere meravigliati di quello che vedono, si vuole sempre ma questo qualcosa è il problema, in più. Volerli imboccare, mentre invece le cose migliori sono quelle che ti scelgono. È vero. E noi per voi abbiamo scelto un paio di eventi, li andiamo a raccontare, li andiamo a visitare per voi in anteprima. E il primo è Egitto, la straordinaria scoperta del faraone Amenofi II, che è la nuova mostra che verrà inaugurata, verrà aperta il 13 settembre, quindi fra pochissimi giorni al MUDEC di Milano. Diamo il benvenuto a Massimiliana Pozzi Battaglia, coordinatrice scientifica della mostra. Ciao Massimiliana, buona domenica. Buona domenica. Buona a voi. Domenica. Allora, è un compito arduo che è quello di farci vedere la mostra via radio. Di cosa si tratta? Che cos'è questo Egitto? Allora, l'Egitto intanto è un linguaggio che parla a tutti e quindi vi devo smentire, i bambini, anche i più piccoli, restano sempre affascinati dall'Egitto, quindi è sicuramente un'ottima idea per un papà che vuole fare colpo, portare il figlio a vedere una mostra sull'Egitto. L'Egitto ha un linguaggio molto simbolico e molto essenziale, sono stati la culla di tutte le civiltà e hanno un linguaggio universale e usando un anacronismo, un design quasi moderno che parla a tutti e piace a tutti, quindi ai bambini in particolare li colpisce moltissimo. Massimiliana, adesso ti faccio una domanda sottovoce, cioè, si può essere anche papà ignoranti su tutto quello che riguarda l'Egitto? Cioè, non si rischia di fare brutta figura, no, se si accompagna i propri figli a vedere la mostra? In questa mostra sicuramente no, nel senso che c'è tutto un apparato multimediale che aiuta tantissimo e soprattutto sottolinea l'aspetto emozionale dell'approccio al reperto egiziano. E oltretutto in questa mostra c'è un livello di lettura studiato apposta per i più piccoli, con una guida stratosferica che è Geronimo Stilton. E quindi veramente il compito è facilitato al massimo, il papà uscirà facendo un'ottima figura. Questo è un aiuto, ma tutto è una mostra adatta da guardare insieme, no? Assolutamente sì, perché appunto l'aspetto emozionale è molto forte e quindi crea sicuramente spunti per riflessioni da condividere sia durante la visita sia dopo. E in particolare c'è l'aspetto del fascino del mestiere dell'archeologo, perché la parte della scoperta della tomba è estremamente coinvolgente, è stata studiata apposta per dare il massimo rilievo dei documenti, che non risultino noiosi ma anzi diventino un momento di grande coinvolgimento per il visitatore, rivivendo appunto l'emozione di scoprire la tomba di un faraone. Egitto dal 13 settembre chiuderà il 7 gennaio, quindi c'è tempo, al MUDEC di Milano, www.mudec.it per tutte le informazioni. Sabato 16 settembre c'è già una sorpresa per i più piccoli, perché c'è questo viaggio in Egitto con Geronimo Stilton. Sì, è uno spettacolo che ha già avuto tantissime prenotazioni, ma verranno fissati altri appuntamenti. Perfetto, grazie davvero Massimiliana e buon lavoro, in bocca al lupo per l'inaugurazione. Grazie a voi. Ciao. Buona domenica. Ciao, ciao. Ciao. Abbandoniamo l'Egitto, anche se so, Matteo, che tra Egitto e Geronimo Stilton insomma, ti sei trovato. No, da fumettista mi sono sentito chiamato in causa. No, consideravo che il connubio Geronimo Stilton-Egitto in un certo senso è perfetto, perché è noto che i geroglifici sono forse la prima forma di fumetto esistente. È vero, infatti, quindi insomma c'è assonanza. Cambiamo completamente argomento, andiamo a giocare perché dal 14 al 17 torna Toccati a Verona, che è questo bellissimo festival interamente dedicato al gioco. Ce lo racconta, ce lo presenta e ci dice anche cosa poter fare insieme padri e figli nelle strade veronesi Giuseppe Giacon, vicepresidente dell'associazione Giochi Antichi. Buona domenica Giuseppe, benvenuto. Buona domenica a voi, grazie. Allora ricordiamo, che cos'è Toccati? Toccati è una grande festa in cui realtà di gioco italiane e internazionali si ritrovano a giocare insieme, a far giocare più gente possibile, liberamente e gratuitamente, per quattro giorni. Quattro giorni in cui una città intera, vie, vicoli, piazze pubblici, spazi pubblici e privati, praticamente vengono dedicati solamente al gioco. Le regioni europee sono l'ospite d'onore di questa edizione. E per gioco noi intendiamo sport, intendiamo proprio i giochi di strada, i giochi tradizionali, i giochi popolari. Sì, intendiamo proprio giochi e sport tradizionali, come li definisce l'UNESCO, che dal 2003 addirittura li annovera tra i beni immateriali, e dalle realtà che li continuano a portare avanti di padre in figlio, di generazione in generazione, a cominciare dalla nostra Italia, che sono tantissime le realtà di gioco appunto e di sport tradizionale. Padri e figli potranno giocare insieme a Verona? Tantissimo, il gioco mai come in questi giorni diventerà il modo per poter stare insieme, recuperare proprio una dimensione di relazione familiare, e quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ricordo che sono quasi 180 le attività che partono dalle 10 della mattina e arrivano fino alla mezzanotte. Ok, quindi insomma basta esserci, qualcosa da fare si può trovare, ma ci vuoi consigliare qualche gioco particolare? Io sì, sto pensando, intanto riagganciandomi a quello che avete detto sulle antiche civiltà, propongo un incontro proprio sui giochi delle antiche civiltà, quindi è un modo per poter scoprire ovviamente il passato e giocando a dei giochi straordinari sia della civiltà greca che della civiltà ovviamente romana, soprattutto queste due e addirittura fenicia. Uh-huh. E qui direi che già tocchiamo dei temi molto forti e anche legati proprio alla dimensione storica. Poi anche per i piccolissimi, che è un tema che ci sta molto a cuore, cioè la fascia 0-3 fino ai 5 anni, abbiamo tutta un'area dedicata con tantissime attività, ovviamente in una dimensione soprattutto, come ci insegnano, materica, cioè terra, pietra, legno, allo stato proprio anche più semplice, più naturale. E questa è un'altra dimensione che non sempre si trovano all'interno dei festival, uno spazio dedicato. E poi abbiamo anche tutta una dimensione legata ai giochi multiculturali, e quindi ai giochi che arrivano soprattutto da tavoliere, dove soprattutto i giochi di semina. Certo. È fatto di semi e semina. e anche questi sono giochi estremamente interessanti, semplici, immediati, che hanno, come ha il gioco in sé, un linguaggio universale. E l'ultimo che ci terrei è un laboratorio sugli aquiloni, ovviamente per chiudere, perché si parte proprio da una costruzione molto semplice con un pezzo di legno o poco più, un po' di carta, velina, e la possibilità di far volare il nostro aquilone all'interno del festival, ma anche oltre. E l'aquilone è uno di quegli elementi intergenerazionali, no? Io, cioè, con mio figlio adolescente ancora facciamo volare gli aquiloni, perché poi subentra la sfida. Sto pensando che, vabbè, l'elemento del gioco è ovviamente elemento di contatto, no? Però tu con le tue figlie giochi, cioè diventa uno strumento di relazione, no? Certo, ovviamente. Certo, assolutamente. No, ma tra l'altro, forse non tutti sanno che io sono di Verona, proprio. E quindi posso testimoniare che il Festival Toccatia è da sempre uno dei festival più attesi dai bambini, sì, e non solo, e in particolar modo dalle mie figlie. E a me piace molto proprio questa idea di giochi di strada. Perché la strada in fondo rappresenta le incognite, no? Rappresenta la possibilità di cadere, rappresenta i rischi, rappresenta anche lo sporcarsi, il contatto con la terra, no? Lo diceva prima. Mentre noi ultimamente tendiamo a tenere i figli sempre sotto una specie di campana di vetro, a farli giocare con i tablet, che va tutto bene, però poche cose valgono come il contatto diretto con la vita. Eh sì, insomma, diventa veramente un modo diverso per mettersi in gioco. Toccati.it per tutte le informazioni. Un grazie a Giuseppe Giacon, vicepresidente Associazione Giochi Antichi, ricordiamo dal 14 al 17 settembre nel cuore di Verona. Buon gioco, Giuseppe, grazie. Grazie, vi aspetto a giocare, grazie mille. Ciao Giuseppe. E andremo a giocare, adesso invece ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Padri Eterni. Non aspettarmi, non tornerò indietro per riprenderti, ti lascerò lì. Avevo capito, sì, che tutto sarebbe rimasto così senza scampo. La vita che scivola via, non rimane più niente. Ti accorgi che avresti voluto fare qualcosa di grande, ma non l'hai fatto. Caro mio! È la voce l'avete riconosciuta, anche se stranamente canta in italiano. Lui è Mario Biondi con questo bellissimo singolo estivo, Basta, nel progetto Mocambo, e abbiamo il piacere di chiudere la puntata proprio con lui, che è un super padre perché ha tanti figli. E in questa puntata in cui parliamo di programmazione, di presenza, di insomma riuscire a conciliare quello che è il lavoro, in questo caso quella che è anche la propria creatività, con la paternità. Ciao Mario, benvenuto a Padri Eterni. Ciao a tutti. Ciao Mario, benvenuto. Io sono proprio in quella fase affaccendata in questo momento, no? Sì, stai qui con la mia bimba di 3 anni appena compiuti, con la sua prima bicicletta. Fantastico. Che ne hai? 6, 7, 8? Quanti figli hai? 8. 8. Il più piccolo si chiama Milo, ha compiuto 13 mesi. E quindi lui comincia a camminare, lei comincia ad andare in bicicletta, gli altri sono dei monelli, tutti, insomma, lei fa trebolare. La prima domanda è: come fai a scrivere una canzone senza essere disturbato continuamente? Cioè, dove ti metti a scrivere? Diciamo che molto spesso sfrutto i momenti, quelli vuoti da tour, anche quelli sono pochi, sono rari, perché non riesco mai a stare completamente solo anche lì. Certo. Però succede nel viaggio, il viaggio non spunta veloce, buono. Ecco, scusate. Niente, è l'apprendimento in diretta dell'uso della bicicletta, sì, quindi sì, ci piace. È una roba pazzesca, con la biciclettina rosa. E durante, appunto, ti dicevo, durante la tournée, il viaggio mi ispira molto, non so, magari fa un viaggio in treno, in aereo, in macchina. Quindi sono dei momenti in cui magari scrivo dei testi o mi vengono in mente delle melodie e poi con l'ausilio della tecnologia riesco a registrare un'idea e poi si va in studio, perché lì che bisogna capire se c'era della fondatezza nell'idea che è nata. Ma è difficile far conciliare la creatività con la paternità? Ma credo che sia difficile conciliare qualsiasi cosa nella vita con il lavoro. Cioè, il lavoro ovviamente è un impegno e come tale ti ruba tempo, ti frega anche i momenti migliori, cioè, certe volte, no? Certo. Però voglio dire, è quella cosa che intanto è la mia passione, perché grazie di Dio faccio un lavoro che è un amore più che una professione. E quindi, e poi comunque insomma, 8 figli, la famiglia, bisogna portarla avanti, quindi tocca lavorare. Stavo pensando che questa cosa che hai detto è molto bella, però, perché io credo che comunque i figli si accorgono se a papà piace quello che sta facendo, cioè non deve diventare un alibi la passione, però capiscono se stai dedicando tempo a una cosa che ti riempie, che ti fa comunque essere un padre felice. Ma poi tanto più che loro condividono con me questa passione, perché tutti o quasi tutti hanno preso questa passione per la musica, tutti suonano uno strumento, cantano. Ah, c'è bisogno di spingerla. Hanno tutti questa gioia, forse ci sono nati, quindi non c'è niente di strano, di anomalo, niente di, come dire, estraneo alla loro vita. Sanno benissimo che il padre sta sui palchi, che gira, che parla al telefono con delle persone strane, che non sa bene con chi parli questo papà, però sa che lui racconta delle cose, racconta anche di loro, quindi è un mondo che per loro è naturale. Mario, finché parlavi sorridevo perché questa cosa della bicicletta che già prima nel fuori onda è emersa, no? E pensavo a come è strana questa cosa, che il compito di insegnare i bambini a andare in bicicletta o accompagnarli le prime volte spetta sempre ai padri. Sì, è una cosa, è una tradizione. Più che spetta, per me è un privilegio. Sì, è assolutamente un privilegio, ma perché? No. È sempre un'ansia, perché poi hai sempre paura, perché se sbagli qualcosa poi la mamma se la prende con te. Esattamente. Ma che disgraziato. Ma forse noi siamo più avvezzi alle sbucciature, forse è per quello che ce lo affidano, no? E poi c'è quel momento... Sbucciatura da ginocchio, sì, campione mondiale di sbucciatura. No, poi c'è quel momento quando li tieni per il sellino dietro, no? E li spingi e loro ti dicono: ma mi stai ancora tenendo, e tu in quel momento li lasci. Esatto. E forse il senso della paternità è contenuto proprio in quel lasciarli lì, in quel momento in cui potrebbe accadere tutto. Sono piccoli momenti di una grandezza che forse neanche noi percepiamo, ma che capiamo poi col tempo sicuramente. Certo. Mario, l'ultima domanda, ma dopo che sei stato via in tournée, dopo che sei stato via una, due o tre settimane, cioè il primo giorno dove finalmente sei a casa, cosa succede quel giorno? Un giorno di festa, un giorno di riposo? In questi giorni, tutti a casa insieme appassionatamente, questo squadrone di 8 giovanotti e giovanotte, perché sono 4 maschi e 4 femmine, tutti a tavola, la nonna, insomma, è un momento di riunione, tanto più che due delle ragazze, le più grandi, Zoe che ha 19 anni e Mari che ha 17, sono state in tournée con me. Okay. E quindi anche loro in questo caso hanno fatto rientro di nuovo alla base con tutte le domande. Ah, ma tu eri sul palco con papà, hai cantato. A me poi chiedono i più piccoli, no? Quelli di 8 e 10 anni, mi chiedono: ma sono brave o non sono brave? Sono state brave o non sono state brave? È tutto un momento di condivisione, di comprensione di quello che succede. È vero che non è un recupero, è proprio questo, un ricontestualizzare, è un rivivere tutto, tutti insieme. Grazie Mario, complimenti, complimenti per l'ottima tournée estiva, complimenti per questo singolo e complimenti per lo spirito che sai trasmettere. Grazie, un piacere, grazie mille per avermi invitato. Ciao, buona domenica. Ciao Mario. Ciao. E siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di Padri Eterni. Grazie a Gianmarco Feronato, alla parte tecnica, ad Andrea Spenuse e Miriam Lucchetti in redazione. Vi ricordo di raccontarci, di scriverci le vostre storie di papà, i vostri commenti al post di Leonardo Pieraccioni, agli argomenti che vorreste toccare, oppure appunto le vostre storie di papà incasinati. Radio24.it è il nostro sito, oppure padrieterni@radio24.it, la posta elettronica, o ancora sui social, Twitter e Facebook, nelle nostre pagine ufficiali. E un grazie anche a Matteo Bussola. Però Matteo, chiuderemo ogni puntata, vero, con un qualcosa di particolare. Sì, chiuderemo ogni puntata con una lettera, sì, aperta a personaggi di volta in volta differenti ai quali riteniamo forse di avere qualcosa da dire. Questo è Padri Eterni, l'appuntamento è a domenica prossima sempre alle 11 e questa è la nostra lettera. Lettera aperta a Kim Jong-un. Caro Kim, l'altro giorno ti ho visto al telegiornale. Accanto a me c'era mia figlia. Mi ha chiesto chi fosse quel signore coi capelli così buffi. Gli ho spiegato che di buffo, ahi noi, hai molto poco. Io mi sono chiesto, invece, guardandoti, se tu conoscessi la canzone di Sting, Russians, scritta durante la Guerra Fredda. Contiene un verso che dice: spero che anche i russi amino i loro figli. Ora, qui di freddo non è rimasto più niente. La situazione è fin troppo calda, incandescente, direi. E tu, insieme al tuo principale interlocutore, che non è propriamente persona nota per la sua mansuetudine, ne sei responsabile. Noi, gente comune, vi osserviamo mentre vi lanciate minacce terrificanti come fossero palline da ping pong, e il senso di impotenza, te l'assicuro, pesa più di una testata nucleare. Ho scoperto che hai 3 figli, caro Kim, proprio come me. Mi chiedevo, anche i tuoi cercano di mangiarsi le unghie dei piedi? E allagano il bagno quando vogliono lavarsi da soli? Dipingono graffiti con i pennarelli sulle pareti della dimora presidenziale, o almeno tu riesci a impedirglielo? Perché questa sì è una guerra che ci accomuna, la sola che valga la pena di essere combattuta. Spero tu ne sia consapevole. Spero che li guardi quanto faccio io, mentre giocano, mentre dormono, mentre vivono. Spero che almeno tu riesca a prenderti il tempo che noi padri, tutti, cerchiamo faticosamente di scovare ogni giorno, e che mentre lo fai tu possa pensare alle conseguenze delle tue scelte. Così, sotto tutte le latitudini, fa un uomo, fa un padre, perché il solo modo che consentirà a me, a te, a noi di continuare a esserlo è che anche tu oggi, caro Presidente, ami i tuoi figli.